America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Gli incidenti di Baltimora, devo dire, hanno di nuovo lasciato il segno sul paese, sull'America. Incidenti in conseguenza dell'ennesimo assassinio, dell'ennesimo omicidio da parte della polizia di un prigioniero, si chiamava Freddie Gray, aveva 25 anni e di fatto era innocente, non aveva fatto nulla di male. Ecco, vedremo poi nel dettaglio che cosa è successo, però ieri è intervenuto, dopo gli incidenti della notte precedente, il presidente Barack Obama. Sentiamolo. Since Ferguson and the task force that we put together, we have seen too many instances of what appears to be police officers interacting with individuals, primarily African American, often poor, in ways that raise troubling questions. Ecco, Barack Obama ha fatto le sue dichiarazioni mentre partecipava a una conferenza stampa con il primo ministro giapponese Abe e si è scusato con il primo ministro, ha detto: mi hanno fatto una domanda di una questione interna, ma è una questione troppo importante e dunque devo rispondere. E Obama dice: da Ferguson, dall'incidente di Ferguson, lo ricorderete, da quando abbiamo messo insieme la task force, ci sono stati troppi casi di quella che sembra essere ormai un'attitudine degli agenti di polizia che interagiscono con persone soprattutto afroamericani e spesso poveri, in modo che ci pone degli interrogativi inquietanti. Questo fenomeno continua a capitare e quando una volta alla settimana, oppure una volta ogni due settimane, ci ritroviamo davanti a questa realtà, dobbiamo preoccuparci. Per questo credo che sia comprensibile come i leader dell'Organizzazione per i diritti civili reagiscono, come sia comprensibile che le madri, i padri, comincino a parlare di crisi. Posso dire, ha detto Obama, che questa è una crisi che si è sviluppata lentamente e non rappresenta nulla di nuovo. Dunque il presidente degli Stati Uniti che parla di crisi, di una crisi strutturale. Secondo me quello che succede è che i poliziotti, pur rendendosi conto che l'opinione pubblica americana ormai è sensibilizzata su questa cosa, bene, i poliziotti non sono pronti a cedere. E dunque, indipendentemente dal fatto di sapere di essere sotto il controllo della stampa, delle televisioni e dei video improvvisati, continuano ad agire in modo, secondo me, incosciente. Il 9 agosto 2014 Mike Brown a Ferguson, subito dopo, 21 novembre, a Akwae Gurley viene ucciso accidentalmente per le scale del suo palazzo da poliziotti in pattuglia a New York, un ragazzino a Cleveland, 28 novembre, 12 anni, viene ucciso dalla polizia perché aveva una pistola giocattolo, 20 dicembre, due poliziotti invece vengono uccisi a sangue freddo da Ismael Brinsley perché vuole vendicare quello che era successo a Garner. E poi uno immagina che le cose, come dire, si calmino, che ci si renda conto che la situazione è fuori controllo, eppure no, perché a Madison, Wisconsin, l'8 marzo, Tony Robinson, 19 anni, è stato ucciso in casa dalla polizia. Il 9 marzo in Georgia Anthony Hill, 27 anni, un veterano in congedo, anche lui era stato in guerra in Afghanistan, in Iraq, quindi poteva avere anche dei disturbi, comunque viene ucciso a sangue freddo da un poliziotto, era nudo, non aveva assolutamente nulla addosso, quindi non presentava delle minacce. 2 aprile Oklahoma, Tulsa, Eric Harris, 44 anni, disarmato, viene ucciso da Robert Bates. Diciamo, mi sono sbagliato, credevo di avere in mano il taser, cioè quella pistola che lancia delle scariche elettriche, e invece aveva la pistola normale. Il 4 aprile poi, una cosa che ha colpito il mondo, Walter Scott a North Charleston in South Carolina, un nero di 50 anni scappa e si vede il poliziotto che tira fuori la pistola e lo uccide a sangue freddo, dopodiché butta il taser vicino perché la sua storia era: aveva cercato di rubarmi il taser. E dunque si è visto chiaramente che non era vero, che era stato semplicemente ucciso a sangue freddo. Happening now, breaking news, violent protests, running street battles breaking out of Baltimore after the funeral for Freddie Gray, rioters pelting police. Ed arriviamo a Freddie Gray. Cosa è successo a Baltimora? Freddie Gray era per strada, a un certo punto c'erano i poliziotti in bicicletta che lo hanno intercettato, lo hanno visto, non che lui facesse nulla di che, semplicemente stava camminando, ma pare che uno dei poliziotti lo ha visto negli occhi, ci sono stati questi sguardi che si sono incrociati e Freddie a un certo punto è scappato. scappato. A quel punto i poliziotti si sono scatenati, lo hanno inseguito, lo hanno preso senza che lui necessariamente avesse fatto nulla, né c'erano denunce in giro per crimini o per furti, e lo hanno messo su un furgone. Ecco, questo è il punto chiave, perché non si sa come e perché è morto, però ci sono dei sospetti piuttosto concreti. Sappiamo che è morto per una lesione alla spina dorsale che era stata troncata quando era sotto arresto della polizia. Allora, qual è la storia che emerge? Beh, che in passato la polizia di Baltimora ha ricorso a una specie di tortura, perché non possiamo chiamarla in modo diverso, con degli altri prigionieri. Cosa fanno? Mettono questi prigionieri ammanettati nel van, nel furgoncino che li deve portare, trasferire in caserma, e sono in genere nel retro, e a un certo punto cominciano a guidare ad alta velocità con sirene spiegate e cominciano a fare sbandare il furgoncino. Il poveretto, che in manette non può controllare i movimenti, viene sobbalzato dentro il furgone. Ecco, pare che questo possa essere successo proprio a Freddy. Perché dico questo? Perché il rapporto dell'autopsia dice che le sue ferite alla spina dorsale sono simili a quelle che si vedono in incidenti d'auto. Di certo sappiamo che non aveva la cintura di sicurezza, questo è stato ammesso dalla polizia. Sei poliziotti sono stati sospesi, però bisognerà vedere come andrà a finire, perché finora i poliziotti se la sono sempre cavata. E devo dire che, pensando a questa storia, mi è venuto in mente un episodio tratto dal film Selma, ma un episodio reale, e cioè Martin Luther King a un altro funerale, al funerale di Lee Jackson ai tempi di Selma. Together we believe that what the illusion of supremacy has destroyed, the truth of equality can nourish. Questa è l'impersonificazione di Luther King, però le parole sono identiche, e mi colpisce quello che dice Martin Luther King allora, perché dice: lì è stato assassinato per la brutalità di ogni sceriffo che pratica l'illegalità in nome della legge. Ecco, sono parole che potrebbero valere oggi. Poi Luther King continua: è stato ucciso, dice, dall'irresponsabilità di ogni politico, dai governatori in giù che hanno nutrito i propri elettori con il pane raffermo dell'odio e con la carne andata male del razzismo. E in effetti queste dinamiche sono dinamiche che continuiamo a vedere ancora oggi. Ma perché il parallelo? Perché sentite cosa ha detto il reverendo Jamal Bryan al funerale di lunedì di Freddie Gray. There's too much killing, too much hatred, too much violence, too much fear. In this community is more than a citizen, he's a martyr. Troppi omicidi, troppo odio, troppa violenza, troppa paura in questa società, non solo in questa città, ha detto Brian. La polizia, l'autorità devono intervenire, controllare una situazione disperata. Posso solo dire che Freddy non è morto invano. Le stesse parole che aveva usato Martin Luther King per Lee Jackson, Lee diceva: non è morto invano. Ecco, resta il fatto che la violenza non è accettabile: 15 palazzi dati alle fiamme, 144 macchine bruciate, 300 arresti, due protestanti feriti alle gambe con colpi di pistola. Sono chiaramente dimostrazioni organizzate da persone, da militanti, da attivisti che arrivano da fuori città. 20 agenti sono feriti, 6 sono feriti in modo grave. A questo punto la situazione sembra sotto controllo, anche perché ci sono 10.000 agenti e militari della Guardia Nazionale che pattugliano le strade, pronti ad intervenire. Certo, questa non è l'America pacifica che tutti vorremmo immaginare. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!